ti voglio raccontare una storia. Devi prepararmi per amore. Tu hai l'intelligenza per capire. Tu sei dolce per amare. Ma tu sei il mondo fa il contrario. Ma tu sei il mondo fa il contrario. Tu sei uomini abbagliati per fama di successo. Vanno con donne che vanno con donne. In quanto non so che macchina hai. E le donne facili con interessi. Sono i soldi, sono sempre stessi. Dove è facile sbagliarsi. Dove è facile buttarsi. Di una storia facile fingere di amarsi. Non pensare a chi invece farebbe qualsiasi cosa per te. E non per denaro ma per amore. E non per denaro ma per amore. E quello vero lo puoi comprarlo. Devi solo conquistarlo. Ma sai come va il mondo? Al contrario. Ci sono due tipi, la bomba e l'innamorata. Chi è la migliore, l'amore è come una fiaba. Che diventa realtà non la fate morire. Evitate il dolore, non fate piangere. La fate sorridere, vi prego. Andate con loro che vi hanno meritato. Da quell'occhio che vi inganna. Se non vi perdete, se non vi perdete. C'è di cambiare questo mondo che è al contrario. Diciamo cambiare questo mondo che va al contrario. Ci sono due tipi, la bomba e l'innamorata. Chi è la migliore, l'amore è come una fiaba. Che diventa realtà non la fate morire. Evitate il dolore, non fate piangere. La fate sorridere, vi prego. Andate con loro che vi hanno meritato. Non con l'occhio che vi inganna. Se non vi perdete, se non vi perdete. Altri uomini invece sentono dei falliti. Non si sono mai realizzati. Sono meno fortunati alla vita. Tu hai solo invidia. Tu hai più di me, tu hai meno di te. Tu hai più di me, io meno di te. È solo apparenza che non ti dà mai. Quello che tu hai già con te. Ricorda che l'amore è già con te. Ricorda che l'amore è più forte dei soldi. Ti salvano e vengono ma l'amore è difficile da trovare. È difficile farsi amare. E non si può, non si può comprare. E non si può, non si può comprare. Ci sono due tipi, la bomba innamorata. Chi è la migliore, l'amore è come una fiaba. Io in realtà non la fate morire. Chi ha il dolore non la fate piangere. La fate sorridere, vi prego andate. Quello che vi hanno meritato. Ma con l'occhio che vi inganna. Se non vi perdete. Sono donne da rispettare. Sono donne che amano il vero amore. Pensate prima di rompere un rapporto. Che cosa vale di più, che cosa vale di più. E quali sono le cose giuste, come pensaci. Semplicemente ma usa anche il tuo cuore. Sono donne, sono angeli. Anche se alle volte rompono un po'. Per amore, ma con la maiuscola. Se non capite non siete veri uomini. Ma se lo fate siete unici. Avete un dono che pochi hanno. In mezzo a questo mondo è pieno di cattiverie. Ingiustizia lo dice chi ha visto. E questo schifo, amore sai. Amore sai. Ci sono due tipi, la bomba innamorata. Chi è la migliore, amore come una fiaba. Diventa realtà non la fate morire. Evitate il dolore, non fate spiangere. Ma fate sorridere, vi prego andate. Coloro che mi hanno meritato vanno con l'occhio. Che mi inganna se non vi perdete. Facciamo cambiare questo mondo. Non sempre te lo posso dimostrare. Vai dentro al mio cuore. E vuoi dirmi cosa tu possa capire. Sei fortunato ad avere una donna. Ti sappia ascoltare. In ogni momento della tua vita. In ogni momento le va capita. Ma prima devi capire te. E perché lei sta con te. Sta parlando per te. L'amore sai cos'è. L'amore sai cos'è. Ci sono due tipi, la bomba innamorata. Chi è la migliore, l'amore è come una fiaba. In realtà non la fate morire. Il dolore non fate piangere. La fate sorridere, vi prego andate. Coloro che vi hanno meritato non con l'occhio. Che vi inganna se non.